Musica diversa per questi portici, dove da anni il rapporto con gli universitari è di difficile convivenza e quella contrapposizione del passato che costò al PC la rottura con una generazione intera, come scrivono i più attenti, non si è mai fino in fondo sanata e allora ad ogni protesto riesplode. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.